Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi torniamo a parlare in qualche modo di turismo e di quelle che possono essere delle grane in cui ogni tanto si va a cozzare. È successo per un turista che aveva prenotato qualche giorno a Venezia. Sì, è successo un turista di Bari che voleva recarsi qualche giorno a Venezia, aveva prenotato una stanza per tre, ma questa vicenda è un po' significativa perché in questo caso aveva prenotato un hotel a Venezia tramite un noto sito Expedia e, come purtroppo può capitare, qualche giorno prima della partenza si è visto impossibilitato a poter partire e da qui poi è iniziata tutta la trafila che alla fine ha visto come vittima cittadino che si è trovato addebitato l'importo del soggiorno e i nostri uffici che si sono visti interessati della vicenda e hanno saputo intervenire con successo sulla questione. Ecco, mi sembra di capire che in questo caso il turista aveva preventivamente annullato il suo soggiorno, quindi aveva avvisato l'albergo, ma qualcosa è andato storto insomma nella burocrazia delle cose. Sì, la vicenda risale al 3 febbraio quando il signor Schiavoni prenota via web tramite l'agenzia Expedia un soggiorno di 5 giorni all'H Hotel di Venezia. Lui aveva prenotato una camera doppia, aveva aggiunto un letto, il periodo di permanenza doveva riferirsi a fine aprile, dal 26 al 29, e due settimane dopo aver prenotato, per motivi personali, decide di disdire inviando una mail a Expedia, chiedendo un avviso di recezione alla mail inviata. Chiaramente la risposta non arriva, ma oltre alla risposta arriva l'addebito. Dopodiché il signore si è rivolto all'hotel per spiegare quello che era accaduto e richiedendo sostanzialmente i soldi indietro, però in tutta questa vicenda è successo che poi, come sempre, i tempi si allungano e la certezza della pena non è mai certa. Ecco, allora si è rivolto a voi dell'Adico e avete trovato un accordo con l'albergo. Sì, abbiamo trovato un accordo perché l'uomo veramente aveva tentato tutto, addirittura una volta disdetta la vacanza, addirittura 2 mesi prima, era stato rassicurato della positiva conclusione della vicenda, però 5 minuti dopo riceve un sms da Cartasì che gli viene addebitato l'importo di 549 euro direttamente all'hotel. Chiaramente in questi casi dobbiamo anche elogiare l'hotel che comunque alla fine, anche se è caduto con l'intervento dell'ufficio legale dell'Adico, si è comunque voluto comunque concludere la vicenda positivamente. Alla nostra diffida inviata poche settimane fa, l'hotel ha dato subito un riscontro positivo e ha provveduto a restituire l'intera somma alla persona, convinti che questo possa essere comunque un esempio di collaborazione proficua tra associazioni di categorie, commercianti e consumatori, perché alla fine è vero che dove si fa fatica a dialogare certe volte l'intervento di un'associazione, in questo caso dell'Adico, si può dare un incentivo alla risoluzione della controversia. Questa è anche un'occasione per ricordare come c'è attivo sempre tutto l'anno uno sportello denominato Vacanza Informata, che è atta proprio a dare attività di consulenza e assistenza per qualsiasi problematica, perché è sempre meglio muoversi anche anticipatamente e in maniera preventiva rispetto a quelle che possono essere delle situazioni che poi capitano a conclusione di un'attività o di una vacanza, con conseguenze di importi e tempistiche che a volte non sono mai certe. Ecco Carlo, la vicenda si è risolta bene, sono contento per il cliente e anche per l'Adico che aiuta in questo caso a risolvere questi problemi, ma mi viene da pensare, è possibile che non si possa riuscire ad arrivare a un accordo direttamente con l'interessato, che spesso bisogna per forza rivolgersi alle associazioni di difesa consumatori? Purtroppo queste cose a volte testimoniano come le controparti fatichino a dialogare tra di loro, cercando chiaramente a dissuadere o disincentivare sempre la risoluzione della pratica, perché poi alla fine molte persone può capitare che lasciano stare e rinunciano a quanto sono le loro aspettanze. Noi vogliamo rimarcare come in questa occasione l'hotel ha capito subito di aver sbagliato e ha risolto la questione, certamente anche se l'ha fatto dopo il nostro intervento. Però è anche vero che, come dici tu Francesco, queste cose a volte non capitano, anzi capitano molto raramente. E la cosa peggiore è che quando accadono, se anche una persona riesce a arrivare al capo di una situazione intrigata, quello che constatiamo noi che non c'è mai una vera tempistica poi che permetta alla persona di capire quanto tempo deve intercorrere per ricevere i soldi indietro, anche se magari il codice del consumo queste cose le regolamenta. Purtroppo la definizione delle tempistiche, veramente mi rendo conto, e questo lo dico con un po' di sgomento, dobbiamo fare un salto generazionale perché secondo me questo si possa risolvere. Certo è che noi siamo soddisfatti, perché poi invece quando è intervenuta l'Avi, con un giro di poche settimane, la vicenda si è conclusa positivamente. Vabbè, insomma, se bisogna passeremo sempre attraverso le associazioni di difesa del consumatore. Grazie quindi all'Adico, grazie al presidente Carlo Garofolini, l'appuntamento è per la settimana prossima. Sì, io ringrazio tutti gli ascoltatori e auguro a te Francesco buon lavoro. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.